compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Dalmazia con Fulvio Erbas. La Dalmazia è una regione affacciata sulla costa orientale del Mar Adriatico, politicamente divisa tra Croazia, Montenegro e per un breve tratto presso il porto di Neum, Bosnia ed Erzegovina. I centri maggiori che ospitano gran parte del quasi milione di abitanti sono Zara, Sebenico, Trau, Spalato, Ragusa e Cattaro. Il clima è mediterraneo e le catene montuose riparano dalle correnti d'aria fredda provenienti dai Balcani. Mare limpido, cale, isole e canali la rendono una meta ideale per regate e turismo. E in questa meta ideale ci andiamo accompagnati da Fulvio Erbas. Dalla sua faccia capisco ancora prima di partire che sarà un viaggio divertente. Intanto la Dalmazia era, per me era la Jugoslavia, no? Quindi era questo strano stato appiccicato a casa mia, quindi siamo a 130 chilometri da dove io abitavo, anche adesso sono a 130-150 chilometri. E l'ho scoperta quando ero molto, molto piccolo, cioè più piccolo, sono molto piccolo, più piccolo. E l'ho scoperta perché eravamo un gruppo di amici, come spesso accade i veneti, noi siamo molto attratti, una parte di noi dall'est. Non dicevo prima che noi guardiamo, perché l'est è avanti, l'ovest è dietro le spalle, anche se basta girarsi e si torna, però insomma questa idea che si va a est, che si va a levante, che si va a oriente. E andavamo nella Jugoslavia, chiamiamola così, no? Noi allora così la chiamavamo, la Dalmazia è un modo più raffinato di chiamare questa la parte costiera, per due motivi fondamentali. Uno, perché volevamo vedere com'erano i comunisti. Noi eravamo curiosi di capire, eravamo tutti 18-19 anni, com'erano i comunisti. Due, volevamo capire com'erano i campeggi dei nudisti. Le due cose fondamentali, no? Cioè capire come sono i comunisti nudi e come sono i comunisti vestiti, no? E quindi ci siamo e abbiamo scoperto, cioè, nulla di interessante. Cioè quando poi siamo andati lì abbiamo detto vabbè, sono come noi e non c'è nulla di che. Avevo già capito che ci saremmo fatti delle risate con Fulvio, ma non è che l'inizio. Primo contatto è stato con l'Istria, sostanzialmente con la zona di Pola, la zona, la punta, in realtà a Rovigno andavamo, perché quella era la zona in cui c'erano i campeggi naturisti, no? Quindi andavamo a fare le nostre prime brutte figure e a confermare che, per questo secondo me va detta, che i maschi sono, dal punto di vista biologico, ma lo dico io, insomma, apprezzo che un maschio ami un maschio e una donna se vuole una donna, no? Però oggettivamente l'anatomia maschile è scadente. Le donne sono oggettivamente, biologicamente più belle. Cioè questa è una cosa indubita, poi uno fa le scelte che vuole, però insomma tu quando giri tra, insomma, tante anche allineate e quello che ci sta lì, insomma tu capisci che le donne sono superiori. Donne, in cerca di guai, donne un telefono che non suona mai, donne, in mezzo a una via, donne. Dopo aver descritto le donne come superiori biologicamente agli uomini, almeno all'interno di un campo nudisti, ecco arrivare una rappresentante del gentil sesso, capace di sfatare il mito. Quindi noi siamo quello che siamo e lì abbiamo capito che biologicamente non abbiamo futuro, nel senso senza le donne naturalmente. E, però insomma la prima cosa curiosa è stato l'incontro con, ditemi se, l'incontro con una cameriera jugoslava, in cui sono rimaste impresse due cose: una specie di stivali d'ordinanza, una cosa, cioè quelli che ti arrivano, mai visti degli stivali così, quelli che ti avvolgono la caviglia, no, giganteschi. E la seconda cosa, abbiamo capito che probabilmente per motivi di lavoro la ceretta nei paesi comunisti non era stata ancora scoperta. e siamo rimasti colpitissimi, devo dire, dalle manifestazioni, bellissime, e abbiamo detto, curioso questo fatto. E da allora siamo tornati praticamente per 15 anni. Forse anche per vedere quali passi in direzione della depilazione avrebbe fatto il comunismo. Abbiamo visto l'evoluzione sia delle scarpe sia della ceretta, quindi possiamo confermare che la ceretta poi si è affermata anche nei paesi dell'est, con effetti buoni. Dopo questa introduzione buffa sulle esperienze dei primi contatti di Fulvio con la Dalmazia, arriva il vero viaggio. E, però fatto questo, che era la parte così giovanile ed è stata Istria sostanzialmente, no? Su cui ci sono molte cose belle da vedere, poi piano piano, non con gli amici ma con mia moglie, insomma, con mia moglie e con mia figlia, abbiamo cominciato a scendere lungo la costa. E quindi abbiamo cominciato a vedere in realtà la Dalmazia vera, insomma, quella che è un territorio bello, frastagliato, ruvido, pieno di suggestioni, pieno di pezzi di Venezia, che è il motivo per cui in buona parte ci vado. Perché sono un sacco di pezzi della Venezia che guarda, che si spostava piano piano, scendeva d'Oriente, quindi tutte le città veneziane, insomma, sono ancora spettacolari. Parlo di Zara, Spalato, Sebenico, cioè la vecchia Trau che si chiama, mi pare, Trogir, non so se pronuncio giusto, ma insomma molto bella, le fortezze che sono nelle isole, sono veramente molto molto belle. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Dalmazia con Fulvio Erbas. Fulvio Hervas mi sta intrattenendo con i suoi ricordi di ragazzo sulla Dalmazia, meta dei suoi primi viaggi con gli amici. Comunisti, nudisti, cameriere dalle gambe vistosamente non depilate, queste sono le immagini con le quali ci siamo lasciati. Ancora mi viene da ridere per il modo che ha trovato di rendermi partecipe di queste esperienze. Ora siamo arrivati alla Dalmazia, vista nelle vacanze con la famiglia. Meno pittoresca probabilmente, ma sono sicura sempre divertente. Quindi ho cominciato a spostarmi, in gran parte spostandomi con vecchio Westfalia, perché il mezzo di comunicazione era questo vecchio Westfalia, che ancora adesso regge. Per cui andavamo, ci permetteva di fare due cose, di fermarci anche nei posti meno, non solo meno noti, ma anche meno frequentati, anche perché puoi dormire di fronte al mare. Westfalia è il fatto che tu tiri i sedili, ti butti giù e dormi a questo formidabile stufetta ad alcol, no? Si incendia anche, ma se si riesce a sopravvivere all'alcol dei fornelli la mattina dopo e non sei quindi abbrustolito, puoi goderti col caffè di fronte a posti veramente molto belli. E ce la siamo fatta tutta, la costa, qualche isola, sino a Ragusa, a Dubrovnik, fino a lì siamo arrivati. Piano piano, in più anni, abbiamo esplorato in realtà a tappe. Visualizzo la stufetta d'alcol e lo scampato pericolo dell'incendio e sorrido. Anche la mia esplorazione è stata andare a sud un po' a tappe. Un po' a tappe perché ci si ferma molto volentieri ovunque. Quindi una volta che trovi un angolo è difficile poi andartene. No? Sull'isola di Murter, per esempio, che è insomma, a metà verso Zara, siamo fermati più volte perché c'era difficile andare oltre. Ecco, andare oltre Murter, ma non so perché, perché c'era questa isoletta, c'è un ponte girevole, proprio spettacolare, questo ponticello che gira, con tutti i pescatori che io guardavo con la bava alla bocca perché ogni anno porto via la canna da pesca e ogni anno torno sconfitto come le truppe tedesche sulla Neretva. Cioè proprio non prendo neanche un gamberetto e mia moglie ogni volta mi dice: ah, anche quest'anno caro, occupi 4 metri cubi con le tue canne per prendere nulla, spendi in esche più di quanto spendiamo in gasolio, insomma, però me la porto. Invece questi qua, è bellissimo vedere questi ragazzi croati sopra questo ponte che buttano due finte seppie, non so cosa buttano, tirano su dei branzini di 19 quintali e lui dice: ma scusate, io sono qui con le migliori esche del nord-est, no, le ho allenate in ore di sedute di terapia, per cui sanno cosa devono fare di fronte a un branzino e non ne vedo uno nemmeno, e questi buttano un pezzo di legno sagomato a seppia e gli prende un branzino gigantesco. Quindi è un'umiliazione, ma anche un fascino tremendo. La simpatia di Fulvio ormai è una certezza. Due cose molto belle di queste terre sono: uno, che mi è capitato di finire in quelle che noi chiamiamo le incoronate, sono le Cornati, che sono spettacolari. Un parco protetto, io sono sceso a Sali e da lì siamo fatti portare con dei barche pescatori e siamo sbarcati su acque trasparenti, la Poseidonia, veramente molto molto bella. Su pezzi, qualcuno dice che la Sardegna è più bella, però è una bella gara, a me piace la Sardegna, ma questa è veramente molto l'acqua limpida proprio. Zone abbastanza incontaminate, i velieri, sono dei velieri austriaci su alcune zone che sembra di tornare quasi a 100 anni fa, proprio velieri pieni di alberi, pieni di gente, che sono molto molto belli. Dopo l'acqua limpida delle incoronate, Fulvio vuole tornare su, un po' più a nord. E poi un'altra cosa molto carina, perché per anni sono andato, era a Rovigno, tornando un po' su, ma facendo un po' a gambero, perché fuori Rovigno c'è il Baron Gausch, che è una nave affondata nella Prima Guerra Mondiale. Era una nave austriaca affondata su una mina italiana. E per anni andavo lì perché c'era, andavo con mio cognato e c'erano tutti i sub che andavano sotto a filmare, a vedere la nave, ed era veramente affascinante, perché portavano su alcuni le vecchie bottiglie di vino, qualche cannocchiale, no? Veramente affascinante. E tornava a galla un pezzo di mondo austriaco asburgico affascinante. E siamo andati per 3 anni consecutivamente, perché era proprio bello. Va bene, io stavo in barca e non sono capace di andare sotto, però anche stare sopra e sentire che sotto andavano 20-30 metri a scavare sotto l'acqua e trovare queste cose era emozionante. Vabbè, una grande tragedia attorno chiaramente alla nave, ma il fascino del recupero è veramente molto bello. Mentre mi parla, ricordo di un viaggio fatto anni fa in barca a vela e gli chiedo di un posto strepitoso che mi pareva fosse alla foce di un fiume. Beh, neanche a nominarlo e Fulvio si infiamma. È il mio luogo in cui voglio che siano portati i miei resti mortali. Lungo questo, si entra lungo per un lungo pezzo e si mettono le barche, perché sono le barche a vela che ormeggiano a Scrading sul molo. Tu scendi, sono le docce, poi c'è questo paese un po' veneziano, bellissimo, spettacolare, una delle zone più belle che ho visto in vita mia. Confermo, non ricordavo il nome, ma ricordavo l'incanto di questo posto. Le barche entrano dentro, fanno un lungo percorso, che è un po' di acqua salata e un po' di acqua dolce, saranno credo 18 chilometri, credo, cioè un bel pezzo di strada, bellissimo, credo. Un grande ponte che passa sopra, lì è proprio da sogno. Ci sono alcuni punti che mettono insieme grande natura, degli scorci molto originali, perché per esempio noi non abbiamo questi fiumi che scavano, ne abbiamo alcuni sul Carso, ma qui sono, quindi insomma, tracciano, fanno un letto portando via le rocce in questo modo, quindi bacini poi che si allargano, una sorta di laghi, no? Che vengono riempiti, poi scende ancora l'acqua, questi porticcioli, è molto, veramente molto, molto affascinante. Bescraino, da me vince, ne volisci. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Dalmazia con Fulvio Erbas. Siamo stati nelle acque limpide delle isole incoronate. Abbiamo cercato di pescare senza successo sull'isola di Murter. A Rovigno abbiamo visto i resti di una nave austriaca affondata durante la Prima Guerra Mondiale. Fulvio ci sta facendo fare la Dalmazia a tappe, spingendosi sempre più a sud. Poi l'ultima esplorazione è stata dopo Sebenico, dopo Spalato. Lì è stato il sud-sud, no? Io pensavo che gli slavi del sud fossero, adesso senza offendere nessuno, come gli italiani del sud, no? Gli slavi del sud sono dei giganti, caspita. Sono rimasto impressionato, cioè, vedo, ma qui c'è qualcosa che non funziona. Quindi quando sono arrivato al sud, che io non sono bassissimo, insomma, erano 7-8 metri più alti di me. Quindi, come siete arrivati fino a qua? Quindi alti, quasi biondi, no? Molte persone, molti giovani che sicuramente erano tornati dalla guerra, c'erano molti che sembrano ex militari. Uomini del sud, alti e biondi. Effettivamente sembra un paradosso. E siamo andati fino alla penisola di Pelješac, fino a Orebić, la vecchia penisola veniva chiamata dagli veneziani, mi pare, Sabbioncello, e lì sono le case dei marinai che nell'Ottocento, fino all'Ottocento, sono andati all'Ottocento a cavallo, hanno fatto famosa la marineria adriatica, perché erano tra i più grandi e più importanti marinai, ma non solo dell'Adriatico, del Mediterraneo, ma sembra addirittura che ci fossero 2500 capitani di Orebić, quindi della zona, che erano imbarcati su navi di tutto il mondo ed erano famosi e bravissimi. E c'è stato non solo il museo con tutte queste facce di marinai, di capitani una volta. Cioè le barbone, no? la divisa, spettacolari, fieri, no? di condurre le navi, e poi le case dei capitani che sono tutte affacciate sull'acqua, che quindi hanno tutte tutta pietra ovviamente, questo grosso giardino fittissimo, proprio fitto di piante, come se fosse isolante rispetto alle onde, al rumore del mare, e poi delle case elegantissime, no? Essenziali, eleganti, grandi, quasi tutte vuote. No, è veramente spettacolare. Azzardo la classica domanda sul cibo. E forse sono anche felice di sapere che non ci dilungheremo, perché ci sono tante altre cose, non ultime le immagini che Fulvio sa regalare. Però il cibo non è la cosa. Qualche buon bicchiere di vino, il cibo non è la cosa più importante. Più. Quindi sono proprio la libertà, la luce, le rocce, la miriade di isole. Qui è proprio gli occhi, cioè qui ti riempie. Io vado lì perché poi mi sento leggero. Cioè io vengo da un'aria intasata, come sono un po' le nostre aree in cui viviamo, anche se mi sforzo di stare fuori dalle zone troppo urbanizzate, però qui c'è poca gente, poco rumore, poi tanta luce, più di quanto trovo però nelle nostre coste adriatiche, di più. Non che non siano belle, noi abbiamo delle bellissime città, però lì c'è talmente è curvo, no, il movimento, che ti trovi spesso solo, ti trovi spesso su un angolino, ti trovi spesso a guardare un tramonto e non c'è nessuno, senza il grande campeggio, senza il grande traffico, con la barchetta sul mare, quattro persone soltanto. Ed è una zona che ci arrivano tutti, trovi veramente turisti da tutto il mondo. E quel tipo di turista che è quello che fa un po' di fatica, che quindi ci ha messo di suo per arrivarci, non l'hanno portato, non è stato condotto da qualcuno, non si è accontentato del primo campeggio, ma gente che si muove. E spesso è gente interessante, trovi la gente molto interessante. A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Fulvio dice che si trova gente interessante da queste parti. Allora gli chiedo di parlarmene. Beh, un signore, cosa è stato? L'abbiamo trovato, mi pare, verso... Eravamo a metà, sopra Zara comunque. Un signore genovese, anziano, che stava facendo la raccolta, gli mancavano soltanto tre stati nel mondo da visitare. Gli aveva, io gli ho creduto perché era talmente, a parte un signore, 75-6 anni credo, no? con la sua moglie, il suo camperetto, un furgonetto come il nostro, e lui da quando era giovane, quando ha cominciato a muoversi, lui diceva: non voglio morire se non ho visto tutti i posti del mondo, della terra, intendeva tutti gli stati, no? E bellissima persona, ci ha offerto da mangiare perché non voleva, e mi raccontava un po' e sono stato molto colpito, gli mancavo ancora tre, spero che ce l'abbia fatta, perché ti parlo di 7-8 anni fa, e spero che abbia chiuso. Una di queste era la Mongolia, che non aveva visto, mi ricordo questo, non era stato in Mongolia, voleva andarci, ma l'America Latina me li ha citati tutti. Tutti uno per uno. Cioè, tengo scritto un diario in cui mi scrivo tutti i paesi, come la raccolta delle figurine, bellissimo. Ed era, non era un ricco, era un normalissimo impiegato in pensione. Dice: cosa serve la pensione? A stare a casa? No, io la nostra pensione ce la giochiamo dicendo a tutti: siamo stati su questo pianeta e abbiamo visto un po' di tutta la terra di questo pianeta. Era spettacolare come persona. Questo signore sì che può dirsi un viaggiatore. Chiedo a Fulvio di raccontarmi dei suoni di questa terra. La descrizione che mi sta per fare è quasi commovente. Allora, un rumore, questo è su un... Abbiamo trovato un campeggetto in Istria che è a Coromaccino, questo nome strano, un piccolo campeggio, anche questo su una lunga insenatura, e lì c'era, alla mattina presto, un signore... anche questo anziano, che parlava in triestino, dato quindi comunicavamo, che martelletto e scarpelletto e batteva sugli scafi delle barche, da pescatore. Dovessi sentire l'eco che faceva, il rumore che faceva in quella insenatura, sembrava un picchio, quelli, sai, i picchi dell'universo, quelli, cioè, un grande picchio, ma regolarissimo, e poi mi racconta, un suono bellissimo, il legno battuto in questo lunghissimo pezzo di mare, spettacolare, questa ansia faceva da cassa, questa era una cosa proprio da registrare, bisognava metterlo nel museo dei rumori, no? Buff, questa è una cosa, bellissima, questa è una delle cose. Terra rossa, terra mia, quando sono andato via, ho affidato a te il mio cuore, giurato eterno amore, casa mia, terra mia, terra rossa, sangue mio, rosso il sangue dei miei padri, massacrati ed infoibati, sangue il pianto dei miei padri, esiliati ed umiliati, terra e sangue nel mio cuore, terra rossa, dolce amore, lacrime della mia gente, terra rossa che non sente il dolore mai lontano del popolo istriano, voglio tornare. Terra istriana, terra mia, terra italiana, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. Questa terra umilde bene, questa terra mi appartiene, terra nostra per la storia, nel mio sangue e la memoria, terra e sangue sempre uniti, non possono essere divisi, terra mia santificata, con il sangue terra sacra, questa è la mia religione, l'unità della nazione, religione insanguinata, religione della patria, terra pazzamente amata, terra mai dimenticata, ogni vero italiano e anche dalmata e giuliano, voglio tornare, voglio tornare. mia terra italiana. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra rossa, terra Istria, terra mia, terra italiana. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. Questa è Italia, è Italia. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Dalmazia con Fulvio Erbas. Ho ancora nelle orecchie il suono degli scafi delle barche da pescatore battuti con martello e scalpello da un signore in un campeggio in Istria. Il picchio dell'universo, come l'ha definito Fulvio, degno di essere messo nel museo dei rumori. Ma da queste parti non tutti i rumori sono così poetici per il mio compagno di viaggio. Poi trovo che il suono della lingua, che è un suono che invece che faccio fatica a sentire, ha una musicalità che non riesco a prendere, no? Questa è una cosa che invece mi tiene un po', non in allarme, sono in allerta, mi tengo. Dopo i suoni è la volta dei colori, anzi in questo caso dei non colori. E poi il colore della, qui c'è roccia ovunque, questa roccia chiara ovunque, che è una cosa che mi piace. Le isole, il colore del mare, l'acqua trasparente, forse è probabilmente una delle cose più belle che ho visto, che ho percepito, che non è un colore, che è la trasparenza dell'acqua. Parlavamo prima, ci sono a Plivice dei laghetti, sono andato, adesso sono un po' cambiati, c'è un po' di cambiamento del colore, ma 30 anni fa, la prima volta che li ho visti, per cui ci sono questi laghetti, l'acqua scava, no? Delle buche che si riempiono di acqua trasparente, ci sono, ovunque ci sono queste passerelle di legno, ci cammini sopra, quello è il non colore, come dire, la trasparenza assoluta, però è una cosa che si muove, è viva, cioè non è una trasparenza, non è il vetro, no? Questa è una cosa che si muove, tu vedi che si muove, e dicevo insomma che ti dà veramente, capisci perché Gesù sulle acque si è divertito molto a camminare, perché ti dà una sensazione di, non solo di leggerezza, ma di proprio di trasporto, del flusso della vita, è una cosa di una bellezza assoluta, stare lì, ci sono andate molte volte, poi un po' cambiata, la prima volta che andavamo, che avevo 20-25 anni, mi tiravano via, perché arrivavo su questi pontili, e poi guardavo questa acqua che correva verso, che usciva dall'altra parte, perché sotto c'è ovviamente una cascata, un salto, no? E vedere questa cosa che trasparente che va giù, cioè è una cosa, è poetico, è spettacolare, è bello, ti svuota la testa, ti sei lì, ma ti svuota la testa. Questo è uno dei posti veramente più affascinanti che ho visto. Di consigli ne abbiamo avuti molti nei racconti di Fulvio Erbas per visitare la Dalmazia. Gli chiedo però se c'è altro che mi vuole dire o se ha dei libri di cui mi vuole parlare. L'ho portato alcune volte, lo cito perché è veramente un modo bello di attraversare la Dalmazia, che è questo libro che si chiama proprio Dalmazia Dalmazia, ed è un viaggio sentimentale, come scrive l'autore, da Trieste alle bocche di Cattaro in bicicletta, che è di Emilio Rigatti, è di Ciclo Editore, ed è un modo bello, intelligente, appassionato, come deve essere, di uno che si muove alla velocità della propria forza, e vede quindi un sacco di cose, le racconta molto bene, ed è un libro che ho preso, perché amo la Dalmazia, quindi leggo spesso delle cose sulla Dalmazia, che mi sono portato quando ero lì, e che devi leggerlo, io l'ho letto dopo conoscendola, quindi probabilmente l'ho vista attraverso gli occhi di un altro, no? Che ha fatto però rispetto a me che corro, che con sto furgone ogni tanto mi scivola via, invece lui l'ha pedalata, è forse veramente più affascinante, tanto che ci ho anche pensato di farlo. E l'ho portato dopo ritrovando tutte queste coordinate che sono visive, affettive, sono emotive, no? Una gran bella terra, quando la attraversi è una gran bella terra. Dopo il viaggio sentimentale di Fulvio, ecco quello di Emilio Rigatti, libro da mettere certamente in valigia. Ma tu non hai mai scritto di Dalmazia? Chiedo al mio accompagnatore. E giustamente la risposta è che in ogni suo romanzo c'è un pezzo di questa terra. Ce n'è persino uno ancora nel cassetto, ambientato in un paesino dell'Istria negli anni 60. Chissà che prima o poi non venga pubblicato. E quindi c'è un intero romanzo raccontato su questo paesino, un paesino di pescatori, pieno di gente simpatica, perché quando sono rimasto più volte, alcune 3-4 settimane alla volta, ho fatto amicizia con un capitano di lungo corso, questo è un uomo formidabile, perché ha fatto delle cose con le navi. C'è una tradizione di comandanti che vengono dall'Adriatico, che hanno veramente girato il mondo. E lui era uno di questi, è andato in pensione e aveva fatto le rotte del carbone da Norfolk, quindi dall'America, fino all'Australia. Portava rifiuti anche nucleari da Amburgo nei mari del nord. Traghettava nelle navi il principe inglese. Quindi ha fatto delle cose ed era un personaggio. L'unico suo difetto è che mi faceva bere, ahimè, la marasca, quella cosa di ciliegie, che era insopportabile, e lui invece era una cosa che diceva questa cosa. Insomma, andavo a casa sua regolarmente alle 3:30, perché prima faceva un pisolino, e poi mi raccontava queste cose che io, insomma, ho ascoltato, poi preso, e immancabilmente 3 bicchierini di marasca. Cioè, che non avevo il coraggio, perché era talmente così carismatico questa persona. E lui mi diceva al terzo: beh, le piace, vedi, perché questa è una delle nostre cose, diciamo, beh, meravigliosa. E invece questo liquido di ciliegia fermentata non era proprio buonissimo. Ma insomma, per ascoltare si fa questo e altro. E ad ascoltare Fulvio non si è fatta nessuna fatica. Grazie del bel tempo passato insieme. Ora Fulvio Hervas è in libreria con Se ti abbraccio non avere paura, edito da Marcos y Marcos. Viaggiare insieme è come un tango, come strade che si incrociano. Un po' d'asfalto, un po' di fango, per due vite che si sfiorano, cercano. Viaggio verso qualche cosa che è già dentro di noi, dentro gli sguardi e dentro le parole. Siamo passeggeri e non so ancora dove. Come sono delle